Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e auguri anticipati di buon anno. Quanti ci ascoltano è a Filippo Cavazzoni. Buonasera Cavazzoni. Buonasera. Filippo Cavazzoni è direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni Libri, una piccola casa editrice come l'Istituto Bruno Leoni mira appunto a diffondere la cultura, il pensiero liberale. E questa sera parliamo di due iniziative, un libro classico, un libro di carta, un libro di 400 pagine, Liberi di scegliere di Milton e Rose Friedman, un classico appunto dell'economia, e parliamo anche di una collana non di carta, una collana come si usa adesso, virtuale, la collana I Classici della Libertà, e ci spiegherà Cavazzoni come questa collana, che è tutta in ebook, tutta realizzata attraverso appunto i libri venduti via internet, vuole costituire appunto un esempio di avvicinamento al pensiero liberale. Allora cominziamo dal libro di Friedman, Liberi di scegliere, perché questa riedizione, Cavazzoni, di questo classico dell'economia? Sì, si tratta di uno dei due testi più conosciuti di Milton Friedman, che era assente in Italia da anni, perché si tratta di un libro finito da tempo ormai fuori catalogo, quindi ci sembrava opportuno ripubblicarlo con una traduzione interamente rivista, con una nuova prefazione scritta da Francesco Giavazzi, con anche la presentazione dell'edizione TEA del 94 di Sergio Ricossa. Quindi un testo importante, da troppo tempo non disponibile per il lettore italiano, che abbiamo messo a disposizione. Quindi un libro appunto storico, che però è di grande attualità, come sottolinea Francesco Giavazzi nella prefazione. Il pensiero liberale è un pensiero che non vuole rivoluzionare il mondo, ma vuole costituire appunto una riflessione sul fatto di come deve essere guidata la società. Giavazzi per esempio scrive nella sua introduzione: spiegare ai cittadini che l'alternativa al mercato, al merito e alla concorrenza è una società in cui i privilegi si tramandano di generazione in generazione, i fortunati e i prepotenti vivono tranquillo, ma chi nasce povero è destinato a rimanerlo indipendentemente dal suo impegno e dalle sue capacità. Convincerli che il modo per difendere il proprio tenore di vita è chiedere buone scuole, non dazi. Ecco, questa citazione di Francesco Giavazzi dalla prefazione dell'edizione italiana del libro Liberi di scegliere di Milton e Rose Friedman. Un libro quindi, Cavazzoni, che dà anche qualche indicazione come gestire il futuro oltre che il passato, e tra l'altro ha un capitolo finale in cui si dice il vento sta cambiando, si riferiva all'avvento della presidenza Reagan negli Stati Uniti, ma adesso il vento sta cambiando, Cavazzoni? Diciamo che nel libro di Milton e Rose Friedman ci sono tutte quelle proposte che potrebbero far cambiare il vento anche nel nostro paese, perché il pregio di questo libro è quello sia di far comprendere il funzionamento del mercato e quindi i benefici della cooperazione spontanea fra gli individui, ma anche quello di avanzare delle proposte che sono quelle classiche poi di Milton Friedman, ovvero la proposta sul buono scuola, oppure l'imposta negativa sul reddito, ma anche le regole per contenere l'emissione di moneta. Certo, ecco, molte proposte, tra l'altro appunto guidate da una linea di fondo che proprio sotto il titolo Liberi di scegliere, Friedman dice: la perfezione non è di questo mondo, prodotti scadenti, ciarlatani e truffatori ci saranno sempre, ma tutto sommato il mercato concorrenziale, quando lo si lascia funzionare, protegge il consumatore meglio dei meccanismi pubblici alternativi che in numero via via crescente si sono sovrapposti al mercato. Quindi il mercato non è certamente perfetto, ma il resto forse, come la democrazia che diceva Cioè, il resto è ancora peggio. Allora, dopo Friedman parliamo di questa collana, una collana in ebook. Ecco, gli ebook, Filippo Cavazzoni, direttore editoriale di BL Libri, stanno prendendo piede allora nel mercato italiano? Sì, diciamo che ancora il mercato è abbastanza ristretto, però la tendenza è quella verso una crescita, ecco, di questo mercato, quindi noi stiamo puntando parecchio su questo nuovo strumento e vediamo che tutto sommato le risposte da parte dei lettori sono positive. Anche perché questa collana realizzata in collaborazione con il quotidiano digitale L'Inchiesta offre dei libri in formato elettronico a un prezzo direi concorrenziale, la collana appunto I Classici della Libertà. Qual è il filo conduttore di questa collana? Sì, diciamo che con questa nuova operazione editoriale abbiamo cercato di mettere a disposizione del lettore brevi saggi dimenticati di importanti pensatori liberali del XVIII, XIX e XX secolo. Alcuni di questi saggi appunto erano finiti fuori commercio, mentre altri invece sono proposti per la prima volta al pubblico italiano, perché fino ad ora non erano mai stati tradotti. Ad esempio il classico, il celebre saggio di Michael Oakeshott, Razionalismo in politica. Ecco, quindi sono una serie di saggi che compongono appunto un percorso che non è solo economico ma è anche filosofico e anche sociale. Possiamo ricordare alcuni di questi saggi? Certo, sì, fino ad ora abbiamo pubblicato diciamo due serie nel corso del 2013, 10 titoli prima dell'estate e 6 titoli in questa conclusione di 2013. Alcuni titoli sono ad esempio due saggi di Bruno Leoni, Il diritto come pretesa individuale e Sciopero e serrata, oppure due importantissimi saggi di Frédéric Bastiat, Ciò che si vede e ciò che non si vede e La legge, ma anche ad esempio il saggio sulla povertà di Alexis de Tocqueville, oppure Libertà e nazione di Lord Acton. Diciamo che è un quadro abbastanza composito che spazia nei secoli ma anche da un punto di vista geografico. Ecco, quindi sono libri che si possono, essendo libri virtuali, ebook, si possono essere acquistati attraverso i canali virtuali e quindi bisogna collegarsi al sito dell'Istituto Bruno Leoni. Sì, diciamo che sono in vendita nei principali store online, ad esempio Amazon, iTunes, sono disponibili in tutti i formati, sia per Kindle che per iPad e gli altri ebook reader, quindi l'importante è avere ecco, lo strumento che consenta la lettura. Un'idea di un regalo per il nuovo anno, quelli di Natale sono già passati, ma possiamo pensare anche dei regali virtuali. Ma allora guardiamo un po' all'anno che sta arrivando, che cosa avete nel cassetto come editrice dell'Istituto Bruno Leoni? Sì, noi apriremo il 2014 con un testo scritto da Ronald Coase, il premio Nobel per l'economia scomparso di recente, che nel 2012, a 102 anni, ha pubblicato un libro originale, non è una raccolta di saggi, ma è proprio un libro scritto di sana pianta, con un coautore che è Ning Wang. Il titolo di questo libro è Come la Cina è diventata un paese capitalista. E si tratta di un lungo viaggio negli ultimi 35 anni di questo paese che da un'economia socialista basata sull'agricoltura è diventato una grande potenza industrializzata a livello internazionale. Quindi un punto di vista liberista che guarda alla transizione di un grande paese che indubbiamente liberista non era. Esatto, sì, proprio così. Grazie mille, grazie a Filippo Cavazzoni, complimenti per il suo impegno di direttore editoriale di IBL Libri. Vi ricordiamo, abbiamo parlato del libro Liberi di Scegliere di Milton e Rose Friedman, sono 400 pagine per 23 euro, e di invece libri molto più leggeri, i libri della collana I Classici della Libertà, tutti in ebook. Grazie a Cavazzoni. Dopo aver parlato del pensiero liberale, dopo aver parlato della collana dei Classici della Libertà, diamo un'occhiata a un piccolo libro, ma molto interessante perché fa il punto su uno dei nodi fondamentali e una delle prospettive fondamentali dell'economia italiana. Si tratta di Le banche e l'economia italiana, edito dal Mulino nella collana Farsi un'idea, e ne sono autori Francesco Cesarini, che è uno dei più grandi esperti di tecnica bancaria, ha insegnato economia delle aziende di credito all'Università Cattolica di Milano, ha scritto libri su questo argomento, e da Giorgio Gobbi, economista presso la Banca d'Italia, autore di numerosi saggi sul sistema bancario italiano, e in questa stessa collana aveva pubblicato il libro Finanza e Credito in Italia. Ecco, la particolarità di questo libro è proprio quello di fare un confronto, direi immediato, di mettere a fuoco le relazioni tra il sistema bancario, il sistema finanziario e il sistema economico, soprattutto negli ultimi vent'anni in cui il sistema bancario è profondamente cambiato, sia grazie alle nuove regole che si sono imposte, grazie alle privatizzazioni, grazie all'entrata in azione delle fondazioni bancarie che hanno permesso appunto le privatizzazioni delle grandi casse di risparmio, sia attraverso le scelte degli stessi banchieri, degli stessi operatori delle banche, che hanno avviato una politica di diffusione, di concentrazione, di apertura verso l'estero, ma anche di razionalizzazione, di maggiore efficienza del sistema. Quindi dei grandi cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni e che hanno dovuto peraltro poi fare i conti, soprattutto negli ultimi 5 anni, dopo il 2008, con la fase drammatica della crisi, una crisi che è stata una crisi soprattutto finanziaria, quindi non poteva che coinvolgere anche il sistema finanziario italiano, un sistema finanziario che comunque per molte ragioni si è dimostrato più solido di sistemi di altri paesi, non ha richiesto particolari interventi da parte del potere pubblico, se non in qualche piccolissima eccezione, e ha saputo appunto difendersi mantenendo la propria solidità e la propria garanzia, e quindi costituendo anche verso il sistema economico una potenzialità che ha certamente tanti problemi in questa fase, che è stato costretto anche a restringere il credito proprio per le difficoltà dello stesso sistema economico, ma che comunque racchiude, come affermano Cesarini e Gobbi, ancora molte potenzialità e molte capacità di sostegno dell'economia italiana. Ecco, capire questo sistema è proprio l'ottica lungo cui si muove questo libro, ve lo ricordo, Le banche e l'economia italiana, della collana Farsi un'idea del Mulino, è un libro di 136 pagine per 9,80 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.